distratti e persi nella notte buia che mi sembra vuota senza te. C'è sempre noi, le mani delle mani, come non ho mai pensato ad arrivarci, non lo giuro mai, ti giuro t'amo troppo, sai, yeah. Resta quel bacio sulla pelle, resta quel bacio tra le stelle, non ti posso perdere, se l'amore è mio non c'è sempre, se la stella mia. Fossi tu per dirti ti amo ancora un po', oh, oh, oh, oh, oh, oh. Resta la notte, le sue stelle, resta l'aria tua un po' di pelle, non ti posso perdere, sei la stella mia, oggi sempre sei solo la mia. Stare un'ora senza te, tu ridi perché sembra impossibile.